get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte, sono Caterina del coordinamento Lesbiche Romane e quella che state per ascoltare è la nostra 165esima trasmissione. Ed oggi con me in studio c'è un sacco di gente, c'è Monica, c'è Rosina che è venuta a trovarci, ma sicuramente la metteremo a lavorare tra poco, e avrebbe dovuto esserci anche Pina Nuzzo, che è la responsabile nazionale dell'Udi, ma proprio in questo momento Pina è ad un'iniziativa del Comitato per il Sì della zona Testaccio, Aventino, San Sabba e Via Zabbaglia, insieme a Lidia Campagnano e al senatore DS Giulietti. Ma anche se Pina non è qui con noi dal vivo, ci sarà lo stesso perché potenti mezzi tecnologici, abbiamo registrato la sua voce, quindi, come si dice in gergo, andrà in differita soltanto con l'audio. La ragione per la quale l'avevamo invitata ed in base alla quale ci ha gentilmente rilasciato questa intervista è che oggi il nostro argomento riguarderà il prossimo referendum del 12 e 13 giugno. Pina Nuzzo ci ha però promesso che la settimana prossima, nel giorno in cui dovrebbe andare la replica di questa trasmissione, farà di tutto per raggiungerci e commentare con noi l'esito del voto. Inutile dire che ci auguriamo tutte la vittoria dei sì, chiaramente. Come sempre vi ricordo che potete intervenire a questa trasmissione tramite l'invio di SMS e quindi vi ricordo il nostro numero di cellulare che è 338-4146-682. Bene, dopo avervi preannunciato che ci sarà la possibilità di andare in diretta per due settimane di seguito, propongo di ascoltare insieme un brano musicale, così ci riprendiamo tutte un po' dallo shock. E volevo mettere un brano cantato dalla cantante di nome Fortuna e si intitola Dame tu fuerza. Come vi avevamo preannunciato poco fa, l'argomento di cui parleremo stasera riguarda il referendum sulla procreazione assistita. Noi del CLR abbiamo deciso di fare questa trasmissione perché come lesbiche ci sentiamo direttamente coinvolte. E nel dire questo non vorremmo si pensasse subito al fatto che, come ormai comunemente oggi si è portati a credere, tutte le lesbiche, quindi anche noi del CLR, desideriamo rientrare nei canoni della comune normalità in base ai quali avere un figlio deve poter diventare una cosa normale. Normale perché consentita e sancita da una legge che te lo consente. Non è proprio così, o quantomeno non è solo questo. Ho cercato più volte di fare chiarezza dentro di me e mi sono chiesta spesso quale sia la cosa che accomuna una legge che pone un confine anziché favorire la vita e la ricerca. Le tecniche sempre più avanzate di procreazione assistita, il desiderio di generare un figlio e me. Percepisco poi che tutte queste parti, apparentemente slegate e molto lontane da me, mi appartengono più di quanto avessi mai creduto. Sono consapevolmente convinta che l'esaltazione della maternità non mi ammalia, anzi, spesso riscontro che troppi figli vengono generati con troppa superficialità, correndo il pericolo quasi scontato che diventino infelici o che le madri, abbandonate a loro stesse, possano cadere nella disperazione più totale e purtroppo la cronaca di questi ultimi giorni mi dà tristemente ragione. Sono consapevolmente convinta che molte donne si lasciano manipolare, avvilire e tormentare per assecondare il culto della procreazione. Questo cerimoniale le porta a credere di essere donne solo se identificabili nel ruolo di madri e questo le assoggetta a riti legati alla maternità a tutti i costi. Sono consapevolmente convinta che le donne possano imparare a credere che creare per loro non voglia dire soltanto generare un figlio. Eppure, nonostante tutti questi convincimenti che di fatto mi dovrebbero portare lontano dalle tematiche in discussione nel referendum, nonostante personalmente non abbia mai sentito l'esigenza, il desiderio o il bisogno di diventare madre, penso che la legge sulla procreazione assistita mi riguardi. Mi riguarda come donna, così come ho sentito anni addietro che mi riguardava la depenalizzazione dell'aborto e per questo ho lottato pur sapendo che io, essendo lesbica, a meno che non essere violentata per strada, insomma, avrei avuto poche occasioni di rimanere incinta. Ed oggi sono pronta a lottare perché vinca la parziale, e dico purtroppo parziale, abrogazione di una legge che non ritengo immetta, come si spaccia, una giusta regolamentazione, ma impone soltanto una serie di divieti senza appello. Ognuna di noi dovrebbe guardare in faccia chi l'ha approvata, chi la sostiene o chi ritiene di poter entrare, ponendo veti, in quelle che sono e devono continuare ad essere scelte sessuali e di vita appartenenti ad una sfera privata. La legislazione non può invadere il diritto di scelta delle persone su aspetti sostanziali della loro vita affettiva. E questo noi lesbiche lo sappiamo bene. È incredibile come si cerchi di far strisciare clandestinamente nelle menti la convinzione che si diventerà imperdonabili peccatrici, con la conseguente nascita del senso di colpa, per una colpa che nessuna ha mai commesso. Perché l'autodeterminazione delle donne è un diritto, non una colpa. Così come per la depenalizzazione dell'aborto ci avevano preannunciato una diffusione preoccupante di interruzioni di gravidanza, o come per il divorzio, dove avevano minacciato l'imminente fine dell'istituzione del matrimonio, anche oggi stanno tentando di proporci una visione di un film dove, nel caso vincessero i sì, si dipanerà un velato scenario di perdizione, dove si darà il via ad una indistinta serie di cloni umani, scelti sul catalogo per requisiti e caratteristiche, imponenti omicidi di massa della vita allo stato embrionale, insomma, prospettano orrori di ogni genere. Non ci credo, non ci ho mai creduto. E anche se il ministro Alemanno alla televisione di Stato ha dichiarato che è soltanto demagogia pensare che i sostenitori della legge 40 vogliano toccare la legge 194, non gli credo. Non gli ho mai creduto. Stanno straparlando da tanto, troppo tempo. Vogliono entrare nel merito utilizzando prepotenza ed intolleranza. non vogliono discutere sul desiderio del concepimento, lo vogliono regolamentare in nome di una loro convinzione religiosa conservatrice e patriarcale, convinzione che riconosce soltanto coppie di sesso diverso. Solo queste coppie, sposate o conviventi, possono accedere alle tecniche di riproduzione assistita, ma con l'assoluto divieto di ricorrere ad un donatore esterno alla coppia. Il concetto che segue tale restrizione è quello legato all'idea che la maternità o la paternità possano essere esclusivamente biologiche e interne alla coppia. Tutto questo nega la reale possibilità di riconoscere un'efficace genitorialità che nasce e si sviluppa attraverso la costruzione quotidiana di relazioni ed affetti. Sarebbe come dire che tutti gli adottati, i nati al di fuori del matrimonio o i bambini che vivono in un contesto non eterosessuale non potranno ricevere mai l'affetto vero. Come se non bastasse, la legge 40 proibisce la ricerca sulle cellule staminali embrionali. Questo frena e reca danno alla ricerca di cure per guarire patologie gravi e invalidanti. Ma di queste fortunate coppie di sesso diverso non potrebbero comunque accedere alla fecondazione assistita nel caso lo facessero per evitare la trasmissione di tutte quelle malattie genetiche o virali. Infatti soltanto l'infertilità dà diritto all'accesso, salvo poi imporre l'obbligo al medico di impiantare comunque un embrione, anche ipotizzando possa essere malato. Dico ipotizzando perché è vietata l'analisi preimpianto all'embrione delle coppie dove c'è la possibilità di trasmettere malattie. Questo perché l'embrione è considerato vita umana da salvaguardare nonostante tutto. Sì, va bene, ma la donna? L'impianto dell'embrione malato è obbligatorio, ma la donna mantiene il diritto di abortire. Ma per quanto ancora durerà questo sacrosanto diritto di interrompere la gravidanza, se questa legge già identifica come vita umana l'embrione? Ed il feto di 3 mesi, allora, cosa si sta cercando di fare? Eliminare l'aborto o speculare sul corpo delle donne? Tristemente mi viene da pensare che si sta cercando di fare entrambe le cose. Senza contare che non è pensabile dimenticare lo stretto legame che intercorre tra la donna e l'embrione. Soltanto l'insorgere di un sereno legame tra loro può garantire lo sviluppo, perché la crescita dell'uno è legato alla volontà, all'attenzione e all'affetto dell'altra. Non c'è e non si può imporre tutela dell'uno contro i desideri dell'altra. È indispensabile che si crei e si sviluppi una relazione significante. E cosa dire poi del divieto per la donna di dire no all'impianto anche dopo che l'embrione è stato fecondato? Non vorrei fare affermazioni che possono essere considerate troppo forti, ma imporre a tutti i costi una scelta obbligata alla donna, negandogli il diritto del ripensamento, mette alla luce quanto sia radicata e subdola la cultura maschile dello stupro. Una donna che dice no in qualunque contesto, in qualunque ambito ed in qualsiasi momento lo enunci, deve essere rispettata. Sempre. Ecco perché percepisco che le problematiche dei referendum mi appartengano, perché rientrano in quella sfera di libertà che ritengo mio diritto avere. Libertà di scegliere, libertà di far nascere, libertà di guarire. Mi piace pensare che uno Stato laico dia la possibilità ad ogni donna impossibilitata per ragioni diverse e che, consapevolmente, con qualunque contesto di base preferisca decide di mettere al mondo un figlio, possa ricorrere a tutte le tecniche possibili, senza che queste invadano la sua titolarità di scelta e la sua salute psichica e fisica. Mi piace pensare di poter essere libera, anche se questa libertà passa attraverso scelte e pratiche che forse non adotterò mai. adesso ascoltiamo un brano di Mariella Nava dal titolo Il nodo, la gabbia e il seme. Allora, come vi avevamo preannunciato, adesso manderemo in onda la registrazione dell'intervista fatta a Pino Annuzzo. Allora, chiaramente noi abbiamo fatto questa intervista e abbiamo lasciato libero spazio chiaramente all'intervistata di dire ciò che vuole. La cosa che ci preme sottolineare è che per noi l'importante è che si vada a votare qualunque scelta poi si apponga sulla scheda. L'importante è andare a votare. Ora, l'intervista di Pino Annuzzo. Allora, comincio già a registrare. Dunque, questa sera abbiamo Pino Annuzzo, come avevamo detto precedentemente, che parlerà, chiacchiererà con noi su questo tema profondamente interessante, sentito, della legge sulla procreazione medicalmente assistita, e passo subito la parola a Pina per fare una sua prima considerazione e intervento. Buonasera. Intanto la prima cosa che devo dire è che su questa legge io sono una che si può dire è stata tirata per i capelli. Perché, devo essere sincera, all'inizio per me è stato molto difficile appassionarmi, intanto per una questione d'età, e poi mi pareva che veramente fosse una cosa che non mi riguardava più, avendo io fatto tutte le battaglie per il 194 e per la contraccezione e per i consultori, mi pareva che fossi un po' fuori età e fuori tutto. poi via via ho provato dei fastidi che proverò anche a dirvi. Il primo è stato che quando si è cominciato a parlare di questa legge trovavo che le sollecitazioni, soprattutto della sinistra, fossero un po' fastidiose, perché continuavano a dire, ad agitare la bandiera del se si va avanti con questa legge si mette a rischio la 194. Questo, secondo me, invece che aiutarci a riflettere sulla realtà di questa legge, ci ha portato poi a fare delle iniziative, o comunque ha portato molte donne a muoversi in difesa della 194, piuttosto che capire quali erano i problemi che la PMA comportava. E quindi dimenticando poi un'altra cosa ancora, che quando noi abbiamo affrontato la questione della 194, che voglio ricordare era per la tutela della maternità e quindi per la possibilità di decidere quando diventare madre, non è semplicemente la legge sull'aborto come poi viene chiamata, e allora molte donne della mia generazione, io ho 54 anni, morivano di aborto, cioè il rapporto sessuale, o l'idea neanche della sessualità ma di un rapporto, era problematico, perché in quegli anni erano vietate tutte le forme di contraccezione e quindi qualsiasi giovane donna aveva questa angoscia, cioè sapeva che poteva morire di aborto. Questo anche donne che non sceglievano di avere figli o di avere rapporti con gli uomini, qualunque donna poteva essere o rimanere incinta perché violentata, perché poteva capitare, quindi questo era un problema che ci accomunava tutte e tutte ci siamo mosse su questo. Quindi noi non è che abbiamo fatto una battaglia per la 194 perché avevamo o volevamo il diritto di abortire, noi volevamo il diritto di scegliere quando diventare madri. E mi pareva che in questi anni, attraverso la contraccezione, i consultori e anche un migliorato rapporto tra le madri e le figlie, questo in qualche modo fosse avvenuto, almeno me lo sono augurata. Come mi ha molto colpito che ci fossero delle donne che a tutti i costi volessero dei figli generati da loro medesime. Perché noi siamo una generazione che è anche molto puntato sul mondo, sugli altri, sull'idea che i figli si potevano anche adottare. Quindi è stato un po' difficile per me accettare l'idea che tutti i desideri sono accettabili, soprattutto in un momento in cui le risorse sono anche quelle che sono, e faccio anche il conto con i bambini che muoiono di AIDS in Africa e con tutto il resto. Però non voglio dire questo, non giudico nessuno, partiamo dal fatto, ci sono delle donne che vogliono dei figli e li vogliono fare proprio loro, con questa è la cosa anche che mi colpisce, con il proprio compagno. Quindi quell'idea di rapporto di coppia, che pure noi abbiamo auspicato, no, diverso, cioè un rapporto più intenso, è diventato la ricerca di un figlio, come se la dimensione della famiglia fosse diventata l'unica vera dimensione possibile. Quindi ho dovuto fare su di me parecchio lavoro per superare questo me stesso politico, no? Cioè quello che io sono stata, e dire va bene, ci sono delle donne che vogliono dei figli e li vogliono in questo modo e li vogliono con il loro compagno e si sottopongono a tutto quello che voi sapete, su cui non voglio tornare. Però l'altra mia domanda è: può una donna tranquillamente pensare che tira fuori dal suo corpo una parte di sé e che quella parte dopo viene reimmessa nel suo corpo senza essere manipolata, non solo da un punto di vista proprio tecnico, ma anche simbolico, dagli uomini e dal patriarcato? Questa cosa mi ha fatto pensare che io non potevo più rimanere fuori da questo discorso, perché questa disponibilità di queste donne ha modificato l'immaginario che io ho su di me. Cioè quella dualità del nostro corpo, no? Quell'idea che io ho sempre avuto del mio interno, che riesco perfino a immaginare, come tante donne, non sono una stranezza, questa parte di me che è dentro di me e che io ho sempre immaginato e pensato come una cosa sulla quale io avevo il controllo, e quindi anche potevo decidere in realtà se io quella parte fondamentale, che non è una cosa indifferente, la metto fuori, anche il simbolico cambia, anche l'immaginario cambia. E quindi non è impensabile, come stiamo assistendo in questi giorni, a un mettere le mani su quella piccola parte che non voglio neanche chiamare con il nome tecnico, non mi interessa in questo momento. Quello che mi interessa dire è che io capisco che in questi giorni non stiamo discutendo della legge sulla PMA, siamo tornati a discutere sul potere sul corpo femminile, anzi sulla possibilità che le donne hanno di generare, e come ancora una volta il patriarcato tende a riconfermare il suo primato. Ti interrompo appena per chiederti allora, perché credo che qui si inserisca bene questa domanda, visto che stai parlando appunto di simbolico, un punto forte su cui si è registrata la più grande opposizione è la fecondazione eterologa, no? Allora, la resistenza a questo ovviamente ha a che vedere con qualche simbolico, di quale simbolico in particolare? Infatti a me ha anche incuriosito tantissimo, no, questa resistenza che si incontra non solo tra chi è contrario al cambiamento di questa legge e quindi andrà a votare no, ma anche tra quelli che andranno a votare sì, ed alcuni dicono, e alcune anche, noi voteremo no al quesito che tratta questo, il quarto quesito. E io mi sono chiesta perché? Perché secondo me il quesito più trasgressivo è esattamente questo, perché il patriarcato non può consentire che una donna trovi il suo accordo con un uomo su un punto preciso, cioè che un uomo accetti il seme di un altro uomo e quindi rompa quel patto che c'è tra uomini per cui si sa con precisione di chi è il figlio. Quindi il problema a questo punto non è un problema se il bambino saprà o non saprà chi è il padre, ma è un patto tra maschi sul controllo della maternità. Questa cosa poi è ancora più evidente perché in un futuro, cioè vuol dire, a me pare curiosissimo che in questa epoca in cui basta andare a fare una qualsiasi analisi del sangue, dopo tu sai di chi sei figlio, nonno e tutto il resto, voglio dire, il bambino che volesse sapere un domani e tra 10 anni avrà forse strumenti che noi non riusciamo neanche a immaginare. Quello che invece si rompe è questo patto, e la cosa che muove secondo me ancora di più la Chiesa è proprio questo. Mi disturba moltissimo, ed è uno dei motivi per cui io vado a votare sì a tutti e quattro i quesiti, che uomini che dovrebbero essere i rappresentanti di questo paese, degli uomini e delle donne di questo paese, si sono appiattiti, allineati, hanno riportato il discorso su un terreno molto fondamentalista, molto come posso dire, di principi etici, quando il problema sarebbe stato molto più chiaro, potevano essere un po' più onesti, avremmo avuto un dibattito molto più semplice. Dunque, allora noi vorremmo aprire un po' il discorso e chiederti ancora due questioni. Primo, se puoi un pochino soffermarti sul tema centrale della salute della donna, quindi non più controllo sul corpo della donna da parte della donna e quindi tutto quello che ne consegue anche come messa a rischio appunto della salute della donna. E poi, seconda questione, anche questa per noi è abbastanza importante, come l'esito negativo di questa consultazione referendaria cambia la posizione legislativa italiana nella legislazione europea, spostando verso il feto appunto il diritto al soggetto di persona. Aver voluto un dibattito appunto di tipo ideologico ci ha portato a discutere appunto sulla vita dell'embrione o dire quando, come, perché. Questo discorso per me è un discorso perdente, sia da una parte che dall'altra. Noi non l'abbiamo fatto neanche quando abbiamo lottato per la 194. Era inutile andare a dire se in quel momento noi stavamo uccidendo una vita o no. Quello che io posso dire è che una donna in quel momento decideva di non accogliere un progetto di vita. E questo lo si fa sempre con una grande responsabilità e, come dire, e lo si paga in prima persona. Non credo che nessuno Stato, nessuno possa entrare in questo rapporto tra madre e figlio eventuale, perché qui poi si parla di embrioni e tutti immaginano feti, bambini, invece stiamo parlando di altro. Quindi secondo me aver spostato questo terreno è stato un elemento di grande pericolo e da questo punto di vista sono convinta che è fondamentale per noi a questo punto andare a votare e votare 4 sì, proprio perché anche noi abbiamo dei dubbi che vanno poi dopo rimessi in una discussione vera tra le donne e tra tutti. La salute della donna. È evidente che una donna in questa che si sottopone a tutto quello che significa la procreazione medicalmente assistita subisce uno stress, questo lo dobbiamo comunque sapere. Quello che trovo assolutamente indecente è volerla penalizzare ulteriormente immettendo in questa legge delle modalità, forme, qualità, cioè tutto quello che la porta a vivere ancora in maniera più cruenta e violenta questa sua scelta. Perché comunque io credo che il desiderio di diventare genitori è in ogni caso un desiderio da sostenere. D'altro canto mi pare ridicolo che si vada a fare delle scelte che ci mettono solo nelle condizioni di vedere una parte di questi genitori o comunque aspiranti genitori dopo migrare all'estero per avere lì quello che qui viene vietato. Quindi nella comunità europea vuol dire questo è anche ridicolo, perché se io qui non posso fare delle cose, basta spostare il confine per poterle fare, allora di che cosa stiamo parlando se non di una forse dobbiamo anche dirlo che noi come dire, abbiamo anche sul nostro territorio come si dice, uno stato straniero che è il Vaticano, questa cosa non è indifferente, non lo è da tanti punti di vista. Quindi io sono convinta che tutto il discorso sulla penalizzazione, c'è qualcosa anche di tortuoso, di contorto e perfino di poco applicabile di questa legge, cioè volendo applicarla alla lettera per certi è praticamente poi impossibile. Quindi anche su questo dovremmo fare i conti. Noi nell'Udile abbiamo detto questa è una legge mostro perché è scritta anche male, cioè vuol dire anche difficile capirla oltre che applicarla. Volevo dire anche un'altra cosa che a me è risultata sufficientemente chiara da subito, no? Forse perché anch'io per il mio percorso politico ho lottato sia per l'aborto sia per l'attivazione dei consultori, ma è una strategia che si sta attivando da molto tempo, cioè diciamo che questa legge, la legge 40, è soltanto uno degli ultimi aspetti. Se tu rifletti un attimo su tutta l'operazione che ha fatto la Regione Lazio con Storace rispetto ai consultori, per esempio, consultori che ormai sono diventati quasi esclusivamente soltanto per le extracomunitarie e che non danno più il servizio che si chiedeva loro di dare, almeno così come l'avevamo pensato noi, no? E poi ecco, volevo dirti questa notizia che per esempio il 30 maggio sul Corriere della Sera è già uscito un articolo del nostro nuovo Ministro della Sanità che è stato rifiutato dalla provincia di Roma e hanno pensato bene di farlo diventare Ministro, che ha detto che subito dopo la consultazione elettorale rifaranno comunque un sondaggio della legge 194. Allora sicuramente il disegno a me è sembrato chiarissimo da subito e anch'io credo che come te non è soltanto un attacco alla 194, è un attacco a tutta l'autodeterminazione che hanno le donne, il diritto di essere quelle che scelgono. quelle che scelgono. Allora, io per ridere con le compagne del CLR tante volte diciamo che gli uomini non vogliono proprio accettare l'idea che loro non possono procreare, e siccome non possono procreare vogliono mettere il becco nelle cose che non li riguardano, vogliono comunque dire la loro, facendo poi chiaramente, come giustamente sottolineavi tu, dei patti di alleanza, chiaramente, perché vogliono e rivendicano sul corpo delle donne un loro immaginario, una loro idea di ciò che si dovrebbe fare. Sono d'accordo con quello che dici e aggiungerei, perché a me piace molto questa chiacchierata che stiamo facendo, perché in questo momento non mi interessa più entrare nel merito dei singoli articoli perché sono stati già ampiamente spiegati. Quello che mi interessa è di capire, noi che abbiamo una storia, il femminismo, chi fa politica tra le donne, da questo momento in avanti, quali responsabilità ha. Allora, io credo che noi non dobbiamo avere paura di riaprire una discussione sulla 194, perché un conto era utilizzare la 194 quando non c'erano i contraccettivi, un conto è oggi, quindi facciamolo questa verifica, come dice Storace, facciamola, anzi io non ho assolutamente paura di questo. Se però questo vuol dire toccare l'autodeterminazione della donna, io non è che mi spavento tanto di Storace, mi spavento un po' di più di altri che in anni passati si sono chiamati alleati della politica delle donne. Non vorrei che ci fossero nuovi patti sull'autodeterminazione delle donne, però io non ho paura, perché sono convinta che le donne questi anni non li hanno vissuti in vano. Come vorrei tornare a fare una riflessione di cui non avevo una chiara percezione nella mia giovinezza, che riguarda il potere sulla maternità. Noi questo discorso negli anni del femminismo abbiamo avuto paura a portarlo fino in fondo, perché avevamo paura che questo aprisse un conflitto con gli uomini. Di fatto nel corso degli anni è diventato da parte degli uomini appropriazione della maternità, perché oggi le separazioni, i motivi di violenza sulle donne sono l'affido dei figli, cioè basta che una donna si voglia separare e ci sia in ballo nella coppia dei figli, i mariti arrivano fino ad ammazzare, è uno dei motivi più frequenti di assassinio di donne. Quindi noi dobbiamo riflettere che cosa ha voluto dire in questi anni il rapporto con i nostri compagni, con i nostri, parlo in termine generazionale, con quelli della nostra età che pure hanno condiviso delle lotte, quindi hanno pensato di avere sulla maternità la stessa parola delle donne. Questa è una cosa in sospeso, io la dico perché, come dire, ma per dirlo anche con chi ci ascolta, questo è un terreno su cui dobbiamo ritornare senza paura, compresa una cosa che voglio dire, che da anni un po' mi appassiona, l'idea che noi donne abbiamo noi donne siamo, rispetto al nostro corpo, estremamente prodigali ed estremamente, noi lo dissipiamo continuamente. Faccio due esempi. Uno, che fine fanno le placente delle donne che partoriscono? Io credo che le donne dovrebbero cominciare a dire, ogni donna dovrebbe poter dire, io di questa placenta voglio fare questo uso. L'idea di non voler monetizzare niente può anche essere una bella idea, però vorrei almeno sapere che fine fa questa parte del mio corpo, perché non è che va buttata, questo le donne lo devono sapere, vengono utilizzate per fare cosmetici o altro. Il cordone ombelicale è un'altra battaglia che noi dovremmo fare, uno perché può essere utile con la ricerca nel corso degli anni per il figlio, ma anche per la madre, che cosa ne sappiamo noi. Invece dove vanno a finire? Non è che vengono buttati neanche quelli. Quindi com'è che noi donne, come dire, tutto quello che esce dal nostro corpo, come dire, tendiamo a pensare sempre che non debba avere un controllo da parte nostra? Questo rende poi possibile quello che dicevi prima tu, no? In fondo gli uomini sanno benissimo che quello che a loro pesa e che a loro manca è questa possibilità di generare. E quindi chi parla in genere, soprattutto gli uomini che sono contro, che cercano di parlare di questo embrione, in realtà loro si vivono come degli embrioni, loro parlano da embrioni, e noi saremmo tutte madri assassine, cattive, come se anche noi non fossimo state degli embrioni. Vorrei aggiungermi anch'io a questo discorso, che trovo veramente interessantissimo, con una domanda che mi è venuta alla mente adesso. Pensi che questa, non leggerezza, ma insomma disattenzione a ciò che noi dissipiamo di noi stessi, in particolare rispetto ai due esempi che tu facevi legati alla maternità, no? Quindi il cordone ombelicale e la placenta, sia anche un prodotto di quel simbolico introiettato che ci dice che ciò che è dentro di noi ci è messo dall'uomo e quindi non ci appartiene, anche se noi lo portiamo avanti, gli diamo la vita e poi lo facciamo uscire? Esatto, perché secondo me quando si comincia a ragionare in questi termini, dopo il ragionamento, tutte si diventa più intelligenti. Io penso sempre e dico sempre che da solo ognuno di noi fa quello che può, ma insieme se si parla si diventa più intelligenti. Quindi sono assolutamente convinta. Intanto non credo che rispetto a questo referendum le donne siano così estranee, cioè io credo che una presenza delle donne sarà abbastanza determinante, lo voglio comunque sperare. Non sopporto quelli che hanno dichiarato, predicato e sostenuto l'astensione, perché noi ci siamo anche battute per andare a votare, uno può anche votare no, decidere, però questo diventa anche un modo per controllare le donne e distinguere tra chi vota e chi non vota, e su questa questione è una cosa veramente scorretta, oserei dire molto molto pesante e brutta. Dunque allora direi forse possiamo chiudere chiedendo a Pina se questo piccolo brano che abbiamo letto nell'appello dell'Associazione Giuriste d'Italia renda un po' il senso complessivo di quello che siamo venuti dicendo o ci aiuti ad aggiungere qualcosa. Questa legge, dicono le giuriste, prevede una regolamentazione feroce del corpo femminile, impone divieti e limiti che espongono a gravi rischi la salute delle donne e riducono drasticamente le potenzialità insite nella libertà procreativa. Come tutti i diritti inviolabili, l'autodeterminazione deve considerarsi sottratta alle decisioni di maggioranza. Sono perfettamente d'accordo, la parola feroce mi ritrova proprio, mi risuona, e quello che ho voluto dire questa sera è che si può ragionare in termini, avere dei dubbi, avere delle perplessità su questa legge, non ci sono delle verità assolute. Quello a cui siamo chiamati in questo momento è a scegliere da cittadini e cittadine che cosa è più sostenibile per uno Stato laico, per delle donne e uomini che vivono in uno Stato laico. Gli altri, poi dopo, voglio dire, ognuno farà i suoi conti con la sua coscienza, ma uno Stato deve regolamentare e quindi deve farlo non in maniera punitiva. Questo il motivo più che io sento più profondamente e che mi porta a invitarvi a votare sì e ad andare ovviamente a votare. A questo tuo appello chiaramente anche noi ci associamo, vorremmo che veramente le donne dessero una risposta così come hanno saputo fare anche gli anni addietro, prendendo in mano ciò che è di loro appartenenza e che quindi vadano a votare. Tutti e tutte, mi raccomando, ma soprattutto tutte, il 12 e il 13 a votare per i referendum. Libera di parlare, libera di giocare. E allora sulle note di Libera di Mia Martini, intanto facciamo una piccolissima errata corrige. Caterina nel suo intervento di poco fa ha parlato di Storace, naturalmente lui è stato presidente della regione, non della provincia, ma insomma un piccolo lapsus. E naturalmente vi ricordiamo che siete all'ascolto di Una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, una trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane all'interno dello spazio autogestito femminista e lesbico di Radio Onda Rossa sugli 87.900. Vi ricordiamo che ci potete ascoltare in diretta anche attraverso il sito della radio, e cioè www.ondarossa.info, oppure tramite il sito del CLR, www.clrbp.it, e in entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. E naturalmente salutiamo tutte le donne che da più parti d'Italia ci hanno inviato un loro messaggio. Se ci state ascoltando via internet, ci farebbe piacere sapere da dove. Se volete potete trillare sul telefono di Onda Rossa al numero, non me lo ricordo mai, 06 49 17 50, oppure ci potete inviare un sms, per cui vi ripetiamo il cellulare 338 41 46 682. Scusate, oppure ci potete inviare una mail se avete tante cose da dirci al nostro indirizzo di posta elettronica contatti@clrbp.it, oppure ancora inviarci un fax al centro femminista separatista allo 06 6864 201. Per chi naturalmente non fosse informatizzata, come ad esempio la sottoscritta, e naturalmente quindi per le amanti grazie per i trillini, per le amanti della carta, ci potete scrivere una lettera indirizzandola a CLR, presso la Casa Internazionale delle Donne, in via San Francesco di Sales 1B. Allora, adesso cediamo la parola a Monica, che ci illustrerà un po' più nello specifico i quesiti del referendum. Allora, cerchiamo di fare un po' di chiarezza sui contenuti di questi referendum. Iniziamo dal primo. Il primo referendum riguarda la ricerca scientifica e vuole abrogare le norme della legge 40 che vietano la sperimentazione sulle cellule embrionali. Gli embrioni destinati alla ricerca sarebbero quelli che non possono essere impiantati nella donna e che vengono congelati per essere conservati, cioè crioconservati, cosiddetti embrioni sopranumerari. Che cosa accade se vince il no oppure l'astensione? Naturalmente rimane la situazione attuale, quindi gli embrioni soprannumerari non possono essere congelati ed è vietato qualunque tipo di clonazione. Se vince il sì, gli embrioni soprannumerari potranno essere congelati e resi disponibili per successivi impianti e quindi per la ricerca scientifica. Naturalmente continuerà ad essere vietata la clonazione riproduttiva, però sarà permessa invece la clonazione terapeutica. Quali sono, diciamo, le posizioni contrarie su queste e favorevoli? Allora, quelle contrarie: la legge 40 dice non vieta la libertà di ricerca ma tutela l'integrità del concepito, per cui non esistendo ad oggi protocolli clinici sull'uso di cellule staminali embrionali, perché provocherebbero gravi effetti collaterali, esistono invece delle applicazioni terapeutiche di cellule staminali adulte da cordone ombelicale e tessuti umani. Quindi è inutile ricorrere alle cellule staminali embrionali e naturalmente ci sono in giochi fortissimi interessi economici. C'è il rischio che gli embrioni, dicono gli astensionisti contrari, si faccia del commercio e si operino delle manipolazioni illimitate. Per il Comitato per il Sì, invece, le cellule staminali sono cellule che debitamente orientate sono capaci di moltiplicarsi e quindi consentono la cura di una serie di organi vitali. Quindi si tratterebbe di rendere possibile la cura di malattie che finora sono soltanto diciamo, affidate alla speranza di un miracolo e non ad una ricerca scientifica vera e propria. La ricerca sulle staminali è fondamentale per combattere malattie come il cancro, la sclerosi, l'Alzheimer, il Parkinson, il diabete e molte altre ancora. Quindi diciamo che la ricerca ne verrebbe fortemente potenziata. Si tratta di problemi che solo in Italia investono circa 12 milioni di persone a cui appunto la legge 40, così com'è, sottrae una fondata speranza di guarigione. Il secondo referendum invece coinvolge direttamente la salute della donna. Oggi molte coppie non possono avere figli o perché affette da sterilità completa o perché affette da qualche forma di infertilità. Che cosa accade se vincesse il no o l'astensione e quindi rimanesse la situazione attuale? Le coppie possono sottoporsi alle tecniche di fecondazione assistita solo se i medici abbiano scoperto con certezza qual è la causa della sterilità. Queste coppie possono sottoporsi alle tecniche di fecondazione assistita solo se dimostrano di avere già percorso tutte le strade possibili per guarire. Non possono accedere le coppie non sterili, portatrici di malattie genetiche. Possono essere fecondati solo 3 ovociti che devono essere tutti reimpiantati, e nel caso in cui formino embrioni portatori di malattie genetiche il medico è obbligato comunque a impiantarli nella donna. La donna non può tornare sulla sua decisione, ha la possibilità di accettare il feto malformato oppure di ricorrere più tardi all'aborto terapeutico. Se vince il sì, naturalmente potranno sottoporsi alle tecniche di fecondazione assistita anche le coppie affette da infertilità non documentabile, per esempio quella di tipo psicologico. Oppure le coppie, per esempio quelle intorno ai 40 anni, che non hanno il tempo di sperimentare altri tipi di cura. Oppure ancora le coppie portatrici di malattie genetiche e quindi per le quali è sconsigliabile che abbiano dei figli naturalmente. Poi potranno essere fecondati più di 3 ovociti e non dovranno essere impiantati tutti contemporaneamente, così che in caso di fallimenti la donna non si deve sottoporre a un nuovo ciclo di stimolazione o a un nuovo impianto di ovociti. Nel caso in cui si formino embrioni portatori di malattie genetiche, la donna avrà la facoltà di rifiutare l'impianto. Naturalmente gli astensionisti contrari hanno sottolineato come l'impianto di più di 3 embrioni non aumenti le possibilità di una nascita. Oggi la tendenza è quella di impiantare un solo embrione. Ancora hanno sottolineato che uno dei maggiori rischi dell'impianto di più di 3 embrioni è l'aumentata incidenza di gravidanze gemellari o plurigeminali. La crioconservazione ha minore efficacia, dicono ancora gli astensionisti contrari, circa l'attecchimento della gravidanza e pone il problema del destino degli embrioni congelati, morte, abbandono, ricerca. Il sì invece risponde fortemente che la legge 40 obbliga la donna, in caso di insuccesso del trattamento, a sottoporsi a più cicli di cura, con possibili danni per la sua salute. Non permette alle coppie portatrici di malattie genetiche infettive la cosiddetta analisi preimpianto, esponendo la donna a un doppio trauma, cioè la possibilità di impiantare un embrione malato e poi la conseguente probabilità di dover ricorrere a un aborto terapeutico. Infine la legge impedisce alla donna di cambiare idea, poiché impone il trasferimento dell'ovulo fecondato anche in assenza di un suo rinnovato consenso. In pratica la donna non può tornare sulla sua decisione. È un po' come se noi dicessimo che una donna non ha diritto in qualunque momento di dire no rispetto ad una sua scelta, di cambiare idea, di ripensarci, di avere insomma una posizione comunque di autodecisione, di autodeterminazione. Il terzo referendum riguarda i diritti dell'embrione. L'incontro tra spermatozoo e cellula uovo produce una cellula chiamata zigote che, suddividendosi, dà luogo a formazioni cellulari chiamate embrioni. Il no o l'astensione confermerebbe che l'embrione, secondo la legge 40, gode degli stessi diritti di una persona, che il diritto alla salute della madre deve essere sacrificato al diritto all'integrità fisica dell'embrione. Naturalmente la posizione del sì è completamente diversa. Se vince il sì, l'embrione non sarà più parificato a una persona portatrice di diritti giuridici e i diritti della madre prevarranno in caso di conflitto, naturalmente. Quindi se gli astensionisti, i contrari, dicono che il principio del referendum sancisce una discriminazione tra gli esseri umani in base ai tempi del loro sviluppo, quindi dicono un embrione varrebbe meno di un feto meno di un bambino meno di un adulto, quindi capovolgendo la tutela dell'imperativo morale della tutela e il massimo rispetto di coloro che non sono nelle condizioni per difendere e manifestare la loro dignità, e quindi in pratica dichiaro che l'embrione è già un essere umano. Invece ovviamente il comitato per il sì sottolinea come la norma attuale assicura al concepito gli stessi diritti della madre e di ogni persona nata. Per concepito si intende già l'ovulo fecondato ancor prima che si formi l'embrione, ed è la prima volta al mondo che questo viene sancito per legge. Se questa affermazione fosse valida, si rischierebbe di mettere in discussione radicalmente la legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza, legge invece che, bisogna sottolinearlo, ha prodotto come esito positivo una drastica riduzione degli aborti in Italia. Infine, il quarto referendum riguarda la fecondazione eterologa. La fecondazione eterologa consiste nell'utilizzo del seme e dell'ovocita di un donatore esterno alla coppia. se rimanesse la situazione attuale, perché in caso di vittoria del no o dell'astensione, nessuna coppia, nessuna, può accedere alla fecondazione eterologa. Se vince il sì, potranno accedere alla fecondazione eterologa le coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, naturalmente entrambi viventi. Qui la posizione degli astensionisti e dei contrari al referendum si basa sul fatto che questo quesito sancirebbe il dissolvimento del concetto di famiglia, perché pone problemi circa l'identità e l'origine nel bambino, introduce i rischi di patologia genetica e di patologia trasmessa dal donatore, pone problemi prevedibilmente più gravi, secondo sempre gli astensionisti, in quanto sono attualmente state approvate in alcuni paesi europei nuove leggi che eliminano l'anonimato del donatore ed approvano il diritto del bambino a conoscere il padre genetico una volta raggiunta la maggiore età. Il Comitato per il Sì sottolinea al contrario che impedire a una coppia di ricorrere a un donatore esterno può produrre solo due effetti: vietare per sempre alla donna di quella coppia di partorire o costringerla, se la coppia può permetterselo economicamente, a recarsi all'estero, quindi in uno dei paesi dove la fecondazione eterologa è consentita, in pratica creando una sorta, diciamo così, di selezione economica, ancora una volta, elitaria, che permette soltanto a determinate persone ricche di ricorrere in casi di necessità alla fecondazione eterologa. Ricordiamo che si vota il 12 giugno 2005 dalle 8 alle 22, il 13 giugno 2005 dalle 7 alle 15. Andate tutti a votare. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, trasmissione autogestita sugli 87 900 di Radio Onda Rossa. Really